Signore e signori, bentornati a Morti di Bestemmie! Carissimi amici, anche ha sentito live, che roba. Tornate a morti e poi di bestemmie, piano piano, con questa colonna sonora. Questa sera ci accompagna la colonna sonora del Trono di Spade, perché di che cosa parleremo questa sera? Parleremo non fasse domande che poi scappa un cazzo, esatto, no. spoiler. Questa sera, mi raccomando, parleremo di una cosa che ha deluso molti, ha fatto felici altri, e soprattutto, insomma, voglio dire, c'è state un po' di polemiche, un po' di discussioni, poi parleremo anche di questo, ma soprattutto se lo siamo levato dal cazzo, perché questa è la cosa, insomma, più importante, più rilevante, ossia il Trono di Spade dopo 9 anni ci abbandona definitivamente. 9 anni, 8 stagioni, e per celebrare queste 8 stagioni bellissime vi farò un accuratissimo riassunto. No, è semplice. Ciao Ned, come stai? Tu muori. Oh, sono arrivati in zoom, ma tu muori, scusa, c'hai tutta la trasmissione per dire le tue cazzate. No, è riassunto. Capito, riassunto, ma iniziamo la trasmissione. Mi sento matta. Oddio, fuoco, oh, basta, te devi star buono. È finita, adesso ho finito la stagione. No, è brutta sta storia. Praticamente gli ha preso proprio. Ma io lo so perché così come con noi c'è Alex Raccuglia. E viva voi, ciao bella Fighenza. Bello, sei tornato finalmente. Siamo tornati, quelli di Morti di Bestemmie poi, fondamentalmente. Ma sì, ma non ce ne siamo mai andati. Siete soltanto voi che non avete capito che questo è stato soltanto un quid spazio-temporale. Siamo tornati dopo 10 minuti, aver finito la puntata precedente. Eccoci qua. Bene, primo nel suo nome salutiamo anche Lobby Frontali che sta in chat. C'è anche Arturino Mazzei addirittura che ci ascolta. Privo del suo nome poi c'è Michela De Babola. Grazie al cavolo. Lo stillare perché questi microfoni sono sensibili, sono delle tecnologie delicate, accurate, insomma, che grazie per esservi ricordati che esisto anch'io. Esatto, perché tu sei un po' l'anomalia, perché portaci un altro vino, un po' ceri, un po' ceri, però c'è altro vino, Dolores. Esatto, potevi portare la birra nel frattempo. E Marco Gualdi che già è iniziato a romper cazzo. Se poi ti faccio il riassunto anche della puntata precedente, di tutti io, i morti e di bestemmie. Allora, prima di dare in via a quelli che sono gli elementi di discussione, io ce l'ho tutti qua nella mia testa, non ho preparato niente. Sono bestemmie. Io farei un complimento, anzi, diciamo, facciamo una pubblicità, non ce n'ha bisogno, naturalmente, perché noi siamo pochi e lui è tanti. Al Trono del Muori su YouTube, perché cioè, comunque in realtà tira fuori un po' tutto quello che sono gli elementi negativi, insomma, di perplessità, ma come amante, come amatore, cioè non è uno che dice no, io critico e basta, insomma, cioè, nel senso, lui ti racconta le puntate in un modo bello, tutto editato, molto veloce, fa riderissimo ed è veramente divertente. Quindi se vi capita andate a vedere, c'è Bran che fa delle cronaca, esatto, ma amici, attenzione, no. Che poi la cosa bella è che i suoi riassunti durano 40 minuti, quindi lui dice cazzo, ma come posso mettere a vedere un video su YouTube di 40 minuti? Passano su. E poi non te ne accorgi, è incredibile, veramente bravo questo ragazzo. Alex, tu sai di che cosa stiamo parlando? Assolutamente, complimenti, perché non solo fa un prodotto della Madonna, ma lo fa in veramente in pochissimo tempo, con tantissimi, cioè un ritmo veramente forsennato, a rotta di collo. Bravo, complimenti. Beh, infatti ci mette un sacco poi a fare l'editing di tutto. Più una vita. Ma no, ma non è che ci mette un sacco, anche se ci mette una settimana. Comunque una settimana per un prodotto veramente eccezionale, tantissimo di cappello. No, che poi lui sospetto che. Ma mi si sente? Perché secondo me c'è qualche problema. No, non si sospetto si che praticamente. Prima si faccia tutta la parte audio basandosi sul file inglese con i sottotitoli. E poi aspetti la versione italiana per rifare tutta quanta la parte. Sì, video, sì, perché, sicuro fa così. Sono tutte quelle bella, diciamo, parte video senza sottotitoli, per cui. Beh, ma non è che i sottotitoli sono impressi nella, cioè vuoi levare i sottotitoli nella mente. Sì, ma lui mica lo prende da Sky, se lo scarica perché sì, va sul torrent anche due minuti dopo. Lo scarica e lo rivolta, tra l'altro, che è una cosa importante, insomma, perché praticamente voi sapete che... quindi. E no, perché c'è un problema di fondo tecnico, che insomma, c'è questa cosa che oggi YouTube fa praticamente la guerra forzata ai freebooters. Infatti lui nell'ultimo video dice che gli hanno demonetizzato un video e gli hanno buttato giù un altro. A lui gli fanno una guerra incredibile comunque, perché questo bisogna assolutamente dirlo. Comunque entriamo a parlare finalmente di quello che dobbiamo parlare, ossia praticamente dell'ultima stagione del Trono di Spade, che io, Alex, Michela, Marco più o meno aspettavamo, insomma. Ma perché noi volevamo farlo anche della stagione precedente? Noi volevamo farlo della stagione precedente, perché però in realtà era previste... mezza stagione, dai. Cioè, sì, era, diciamo, era il preambolo, era l'introduzione, era l'incipit a questa stagione qui, anche se è venuta dopo un anno e mezzo, cioè praticamente una cosa del genere. Comunque. Perché la perfezione esige tempo, no? Quindi, esatto, esatto. Certo. Il vantaggio, secondo me, è stato, cioè, quelli più fortunati sono stati quelli che non c'avevano aspettative. Tu, Marco, c'avevi aspettative? Ma io assolutamente no. Cioè, proprio ho detto fin dall'inizio, proprio hype zero, anzi. Zero, assolutamente zero. Più che hype zero, magari l'hype c'era anche, però nel senso, non vedo l'ora di vederla, però non mi aspetto niente. No, io proprio assolutamente zero. Sono arrivato, mi aspetto la catastrofe, e quindi sono rimasto molto più o meno. Andava bene, cioè, posso dirmi soddisfatto. Sono soddisfatto, dai. Michela, tu invece? Ah, io non vedo l'ora di vederlo. Stavo proprio a mille. Tra l'altro, ho sfasciato cose in giro perché dovevo vedere il Trono di Spade, quindi no ero veramente molto felice che ricominciasse questa stagione. Poi vabbè, la felicità, puoi essere felice, è come quando c'hai un amico che sta morendo e tu lo vai a trovare e dici vabbè, tanto l'ultima volta che ti vedo sono felice di vedere, non è, puoi essere felice, vabbè, falla, c'è finire, sempre quel dolore dentro. Tu stasera devi stare calmo però, perché se no non finiamo. Non c'avevi quel dolore dentro di vedere l'amico che muore, che ti sta per lasciare. Parlaci sopra. No, ero molto, c'avevo grandi aspettative perché comunque ero cosciente del fatto che sarebbe finita, e quindi c'avevo grandi aspettative sulla fine, quindi io ti dico soltanto Lost. No, ma non c'è troccato. Beh, però non è allo stesso livello. No. Però è allo stesso livello. Dopo Lost, le aspettative le lasciamo sempre. Allora, quello che dopo Lost e Dexter, noi sappiamo che le serie televisive possono essere meravigliose, perché Il Trono di Spade secondo me è stata forse una delle più belle serie televisive che io abbia mai visto, però sai che quando si avvicina alla fine te devi un attimo vabbè. Sì, però Lost l'avevano già rovinata la quarta stagione, quarta stagione era andata tutta. Alex, tu c'avevi hype? Allora, ce l'avevo di più un anno e mezzo fa, e poi man mano le cose si sono acquietate, però sì, ero abbastanza in apprensione, perché io ho amato questa serie sin dall'inizio, ho sempre detto che le prime quattro stagioni sono veramente le cose più belle che ho visto in televisione. Ma forse anche fino alla sesta. No, non te devo dire, non mi ha preso più come prima, nel senso, non ho perso, cioè, mi è piaciuto tantissimo, io a me questa ultima stagione mi è piaciuta da morire, però non era più la cosa magistrale che avevo visto perché prima. Perché poi alla fine avevi imparato, cioè, come di ora ti conosco, non mi stupisci più, insomma, tutto sommato, no? Cioè, ma insomma, diciamo che era tornata su dei binari di normalità, cioè, finito il traino dell'autore originale, sono diventate un po' più delle serie in cui alla fine non moriva quasi più nessuno. Però detto questo, stagione c'era tutto. Beh, no, c'è la guerra dei bastardi, c'è la battaglia dei bastardi. È comunque basato sui libri, poi dalla battaglia dei futuri. Fino alla sesta. I libri arrivano fino alla morte del Giosuè. Sì, però i libri poi dopo si divergono veramente già tantissimo. Sì, vabbè. Allora salutiamo anche zio Mischi che ci è venuto a trovare. Zio Mischi, che? No, zio Mischi. Ah, cioè, ho capito male. E Lobby dice che lui invece ce l'aveva l'hype, ma per Il Trono del Muori. Infatti, in effetti è bello. Tra l'altro, io sto ricominciando a rivedere Il Trono del Muori dalla prima stagione. Proprio anche se ha fatto un po' a cazzarella, perché è partito dalla prima, la seconda, poi è nata la settima, ottava, ha fatto un casino. Comunque. Detto questo, io invece il primo morto di bestemmia che voglio lanciare in merito a questo finale di stagione dei morti di bestemmia nel Trono di Spade è verso il pubblico. Perché diciamoci la verità, Alex, mo, al di là di quello che pensiamo, al di là delle idee che ci siamo fatti, al di là delle nostre opinioni e dei nostri gusti, il pubblico ha rotto il cazzo. ha rotto veramente tanto il cazzo, e soprattutto il pubblico che si arroga il diritto di fare da autore quando autore non è. Tutti si sono lamentati veramente in tanti, dichiarando: ah, questa è sceneggiata da un bambino di 3 anni, gente che probabilmente non sa tenere in mano neanche una matita o scrivere più di o brv, tanto per citare il trono dell'uomo. Cioè, un sacco di gente che non capisce neanche come è strutturata una cosa e ha criticato. Posto che non c'è l'idea originale e lo stesso Martin non lo sa come va a finire, che io non ci credo proprio, perché altrimenti non vai a aspettare 8 anni morire per scrivere un libro. Lui volevo morire prima. Ma sì, infatti, cioè io non leggerò più i libri perché non sono sicuro che Stugoi schiatta prima. Non glielo auguro, però nel senso il timore è quello. Non glielo augura, però, cioè quella è la cosa. Spero di morire prima. No, comunque dicevo, cioè il fatto che il pubblico ha rotto un po' il cazzo e le produzioni a un certo punto glielo permettono pure, no? Perché al di là delle petizioni, no? Qui facciamo un bel giro d'opinioni, partiamo da Michela, Marco, al di là delle petizioni, però alla fine oggi mi pare che si attende molto la reazione del pubblico per dare poi la piega a quello che dovrebbe. Allora, ok, sono show televisivi, no? Quindi alla fine devono fare audience, devono fare pubblico, devono fare soldi, però è vero pure che dal punto di vista autoriale praticamente non c'è più un cazzo se dobbiamo stare da retta a sta roba qui. Michela, tu che ne pensi? Ma io penso sì, che alla fine è un po' come quando la domenica, cioè era diventato un po' come quando la domenica guardavi il calcio. No, guardavi il calcio e poi il lunedì ti ritrovavi al bar a fare il commissario tecnico, perché alla fine tutti hanno fatto giocare Giannini. Sì, sì, una cosa del genere. Gioca da 20 anni. Ma lei parla al passato. E quindi, cioè, veramente leggevi i commenti delle persone che poi alla fine sembrava che in qualche modo dovessero criticare a tutti i costi sulle scelte autoriali, sulle scelte di sceneggiatura. Ricordiamo che noi conosciamo gente che dice che Candy Candy era innamorata di Albert, no, di Terence. Io a malapena so che Candy Candy mi sta sul cazzo. Aspettate un attimo, devo abbassare il volume perché questo sì, ma non capisco. Questo è il volume della discoteca. Sì, non capisco perché, ma c'è questo brano che va a palla proprio, cioè da solo, quindi Marco, tu invece? Sponsorizzato. La domanda però qual è, scusa, vabbè, mi ricordi un'altra persona ancora? No, io vorrei però dire prendo il mio monologo che ho scritto. No, grazie. E lo leggo. Vabbè, allora Alex che è il personaggio più interessante. La domanda qual è, scusa, la domanda era rotto il cazzo, il pubblico ha rotto il cazzo un po'. Pubblico rompe sempre il cazzo, però beh, sempre, molto ultimamente in maniera particolare, soprattutto quando ci stanno le cose evento, le serie evento, le cose particolari, è normale che rompe più il cazzo, cioè e anche quello fa parte del gioco. È lavoro se loro. Non pensano cazzo, se facessero gli affari loro ci sarebbe anche meno clamore e meno pubblicità, fa parte del gioco. Comunque Lobby Rontali dice che la sesta stagione per un quarto è ancora la storyline da Martin. Io sapevo che arrivava fino alla morte. Se lo dice lui che ha letto i libri, allora va bene. Ok, meglio così. Impara anche ad ascoltare gli altri, non ascoltare solo te stesso. Ma infatti lì resuscita. Resuscita. E invece stavamo dicendo, Alex, insomma, a pubblicare rotto il cazzo, dai. No, ha rotto il cazzo tantissimo, in questo caso molto di più. Ha rotto il cazzo il pubblico che dopo 2 minuti che finiva la puntata andava su Twitter a fare il figo. Sì, però di qua e di là non è che dovevamo fare questo. Cioè, la gente che deve farsi bella per far capire che c'era, allora dopo 3 minuti, dopo la mezzanotte, che spoilerava. Io, infatti, io passavo tutte le giornate del lunedì praticamente col telefono spento, ma la produttività elevatissima. Tranne l'ultimo giorno in cui sono rimasto sveglio fino alle 3 di notte per vederlo. Rende così tanto proprio. Infatti, hai visto? Che roba. No, ma in effetti poi è così, perché poi adesso va di moda il criticare a priori perché sei più intenditore, sei più intelligente se critichi, no? Marco? Ma secondo me rompi solo più il cazzo e basta. No, ma ti fai più vedere, cioè non è importante cosa dici, ma il fatto che lo dici, cioè bisogna apparire oggi, normale. Facciamo sentirci la canzone, bella, dai. No, non capisco, però c'è il dugging che stasera che sta facendo i cazzi suoi praticamente, però vabbè. Ma c'è la musica in sottofondo, ma che cazzo te ne frega? È così, roba che doveva essere il trono di spade, invece alla fine c'è gente che canta, quindi vattene a fanculo, ok? Siamo senza sì, lo mettiamo in post-produzione. Sì, sì, post-produzione, sì, sì. Che volevo, che ne so, metti l'inno dell'Lannister, capito? Basta scaricare. Allora, vabbè, io però vedrei pure quello che succede bene nei commenti, perché c'è Zio Mischi che dice che la battaglia dei bastardi è molto sopravvalutata. No, no. E io non sono d'accordo. No, dai. Cioè, ma lì siamo ancora in pieno core del Trono di Spade, quando sei ancora appassionato, quando speri ancora che si Stark in realtà. Quando ancora c'era sempre la morte. La morte nera. La morte quella. Ubriaca. Sì. La gente che moriva male, insomma. Sì. Ma morta male, insomma, sono io, morti parecchio male lì. A allora, questo punto, infatti, mi riconducerei per essere proprio diamo come è iniziata questa ultima stagione. Perché questa ultima stagione io ci ho avuto la sensazione, Alex. Poi dimmi, insomma, la tua, perché questa ovviamente tu sei un po' più tecnico di noi. Io ci ho avuto la sensazione che volevano dare molto Trono di Spade in termini di atmosfera, ma dal punto di vista del concept, del perché succedevano le cose, mi sembra un po' a cazzo di cane. Diciamoci la verità, Alex, tu cosa ne pensi? Allora, la prima puntata è essenzialmente una puntata comica, perché è la storia di un tizio in carrozzella che viene dimenticato in un cortile. Natale a Westeros. Cioè, lui sta lì tutto il tempo e nessuno se lo caga. Lui vede la gente che passa e nessuno gli dice ciao, oppure gli dicono ciao, però lo lasciano lì. E a lui va bene così. No, la prima puntata mi aveva deluso tantissimo. L'ho vista, oh mio Dio, che due palle. Anche la scena di volo dei draghi in cui c'erano Jon Snow e Daenerys che fanno la loro storia d'amore. La storia infinita. L'ho trovata veramente gratuita e vabbè, va bene così. L'ho trovata veramente la prima puntata di questa stagione mi è sembrata l'ultima puntata della stagione precedente, cioè nel senso in cui si protraeva, si andava avanti, spettacolare da vedere, già riconoscere che comunque questa è la serie più spettacolare che sia mai andata in televisione. Questa stagione in particolare, secondo me, ha dei picchi veramente grandiosi. Sì, cioè, voglio dire. Ma è il secondo arrivato, è un decimo di questa, cioè non c'è mai stata, e per altri anni, per altri dieci anni non c'era niente del genere. Esatto, no, probabilmente visivamente ci sono dei colpi d'occhio, ragazzi, veramente clamorosi. Cioè, io devo dire, al di là dei clegrini che cascano di sotto, aria che se ne va col cavallo, che poi dato esce fuori il cavallo che se ne va in mezzo alle piante, del non farsi mai domande. Ma che cazzo ci è servito sto cavallo? Daenerys vestita da mazzinga, perché noi dobbiamo sapere che le regine a un certo punto, indipendentemente da come sono vestite, a un certo punto si vestono fasce. Spieghiamo meglio il concetto, con le ali del drago dietro, bellissimo, cioè. Sì, quello è fighissimo. Dai, allora, Cersei, anche la scena in cui il drago Cersei comunque distrugge il trono. È l'imperatore Vega. Quindi abbiamo Cersei, esatto. Vega. Sansa è mazzinga. Esatto. Daenerys non ha ben capito ancora che personaggio di Gonagai è, però sicuramente c'ha una sua Daenerys è Capitan Harlock. Perché è sempre la storia della lobby LGBT, sì, che... ok. Comunque stava dicendo Alex cose interessanti, scusa Alex. Allora, posso scusare male, esatto. Prima di la prima puntata, appunto, l'ho vista assolutamente interlocutoria, è una grande delusione. Io mi sono detto, se il resto della serie è così, veramente finisce male. Che schifo. Mentre dico, la seconda puntata di questa stagione l'ho trovata adorabile. Tutti, che palle, è peggio della prima. Io non so dove cazzo come cazzo l'hanno vissuto. Io ho vissuto l'ansia del sta per finire il mondo, esatto, sì, in un modo talmente intenso che veramente ho assaporato ogni singolo istante della puntata, con il picco, la scena dove ci sono i sei personaggi attorno al fuoco e il battesimo da cavaliere di Brienne. Io ho trovato quel momento, veramente mi ha preso il cuore, ho detto cacchio sì, cioè l'ultimo tramonto prima della notte, che potrebbe essere infinita perché c'è l'inverno, perché arrivano i morti, perché l'umanità scompare, non perché muoiono loro, ma perché l'umanità stessa scompare, cioè dal punto di vista l'ho trovato veramente enorme e anche angosciante. E questi barlumi di ultima umanità, anche il fatto che io divento cavaliere, ma domani comunque moriamo tutti. Tanto moriamo, certo. Esatto, l'ho trovato comunque. No, secondo me funzionava, quella cosa ha funzionato, esatto. È vero. E ho trovato più epico questo istante di tutta la saga dei Signori degli Anelli, degli Hobbit, di Silmarillion, quella merda infernale lì. No, cioè, ripeto, no, quel momento lì. Beh, a parte oh, dal mondo dico... che si sbrodava addosso, pure il siparietto comico ce deve stare, dai, cioè, a parte quello. Sì, va bene, però ripeto, non era neanche, non l'ho trovato gratuito, l'ho trovato veramente tutto assolutamente perfetto, grandioso. Infatti, la seconda puntata mi ha detto, oh mio Dio, che figata di serie, ed è una cosa che mi è piaciuto perché è stato completamente diverso da tutte le altre cose. Non era più il Trono di Spade che, a cui ero attaccato io, era un'altra cosa, ma un'altra cosa dal mio punto di vista bellissima. Sì, starò diventando vecchio e sentimentale. Mondo, starò diventando vecchio e sentimentale, però ho detto: mamma mia, questa qui è questo qui non è neanche cinema, non è televisione, questa è comunicazione, questa è emozione. Cazzo, e quando è stata l'ultima volta che mi ero emozionato davanti a un prodotto audiovisivo? Non me lo ricordo neanche, per cui vaffanculo, tanta roba. Io ho pianto al cinema qualche giorno fa. No, vabbè, però lui dice audiovisivo nel senso, per esempio quando è morto Charlie in Lost. È vero. È stato un momento grande, veramente grande scena. Questa non è la barca di Penny. Not Penny Boat. Allora, secondo me l'atmosfera da attesa prima della fine del mondo c'è, funziona quella cosa. Ma al di là di quello che pensiamo sulle trame e sottotrame, come sono state innescate e quanto sono state un po' semplificate determinate cose, bisogna dire, Marco, l'atmosfera lì in quella puntata c'è. Pure aria, ho fatto quasi quasi la sgancio prima che moro verde. Esatto. E beh, ma c'è, proprio quello, cioè nel senso. Ah, sì, è vero, questa è stato bello. Aria è un personaggio che ha vissuto un vabbè, forse il personaggio più importante di questa stagione. Sì, è una che ha passato 8 stagioni a prepararsi ed è diventata, si è disumanizzata. C'è anche i suoi trascorsi nell'isola dall'altra parte dell'oceano in cui ha fatto training, eccetera, eccetera, eccetera. È rimasta umana, cioè non si è annullata completamente, ma si è annullata quasi del tutto. Per cui probabilmente non le interessava neanche. Sì, non le interessava neanche fare l'amore, però dice, visto che è l'ultima notte della mia vita, vediamo com'è, capiamo. Ed è stato bellissimo e delicato insieme, e nello stesso tempo è stato asettico, per cui ancora più forte. Hanno voluto dare una chance anche di umanizzazione, Michele, non so se sei d'accordo, anche a personaggi che ora è considerati male o comunque hanno rappresentato il male, magari, no? Tipo il mastino, no? Ma anche il mastino a suo modo. Beh, però già nelle altre stagioni, già nelle altre stagioni, comunque dette, alla fine non è che, cioè, lo umanizzi, perché comunque c'è stato il modo di sviluppare il personaggio e di affezionarti in qualche modo al personaggio. Giustamente. Posso entrare in dettaglio? Giustamente Lobby dice: non riprendiamo la storia di Aria del Fabbro, vi prego. Entro di taglio, il mastino d'aglio. Dal mio punto di vista, insieme ad Aria, protagonista della scena più bella dell'intera serie. Sono d'accordo. Cioè, quella delle botte? Le botte. No, il fatto che nella penultima puntata, quando Arya e Clegane stanno per andare, Arya ad uccidere Cersei, Clegane uccidere suo fratello, e Clegane si ferma: non puoi non venire. Cioè, nel senso, alla fine abbiamo scherzato, abbiamo giocato, abbiamo fatto tutto, abbiamo girato il mondo insieme, però questa qua è la fine. E Clegane dice: io sono così perché vivo la mia vita ha un solo significato, la vendetta. Ma tu no. Tu puoi ancora salvarti, cioè, nel senso, alla fin fine, Clegane dice: io sono morto, non sono più un essere umano. Cioè, non mi interessava morire con gli zombie, non mi interessava niente, non mi interessava scopare dopo che avevo finito gli zombie. Cioè, io l'unico obiettivo è vendicare la mia esistenza rovinata per colpa di mio fratello. Ma tu no. E Arya lo capisce, e per un barlume, cioè, nel senso, diventa umana ancora per un attimo. E lo lascia andare e lo chiama per nome, dice: Sandor, grazie. Questo sì, thank you è più bello, ti giuro. Io ho avuto i brividi in quel momento lì. Cioè, sei arrivato fino a là, però. Cioè, questo è un po'. Ma anche le scene successive, in cui comunque gli stessi colpi. No, gli stessi colpi che subiva il mastino, in qualche modo li subiva anche lei, cioè quando cadeva lui. Sì, no, allora io posso dire che veramente non ci ritorniamo su sta cosa, perché sennò, cioè, visivamente per me sta serie è un lavoro. E forse per quello che si sono concentrati forse anche troppo più sul linguaggio visivo che sul contesto, no? Perché poi alla fine. Ma è cinema, troppo. Cazzo, il cinema è visivo, sì, porca puttana. Cioè, capito quello che voglio dire? Non può essere solo. Sennò me vedi, sennò. Vabbè, allora andatevi a guardare. Esatto, però ripeto, secondo me questo è quella roba lì, cioè, e alla fin fine l'apoteosi visiva è carica anche del fatto che ci sono 8 anni di costruzione dei personaggi. Poi allora, dice, il fatto che sono arrivati lì e vivono tutti un'esperienza più grande di loro, cioè una guerra, la guerra definitiva, prima al nord contro gli estranei e poi al sud contro il tiranno. Con un tiranno a tua volta, che adesso a questo punto sclera e brucia tutti, nel senso, cioè, sono tutti vittime dei eventi più grandi di loro, cioè non hanno possibilità di crescere, di fare cose, perché non c'è tempo, c'è la sopravvivenza tua e dell'umanità insieme che deve essere portata avanti. Per cui ripeto, dal mio punto di vista ci sta anche che i personaggi singolarmente abbiano un momento in cui non escano fuori, e poi quando ne escono fuori, dal mio punto di vista, Aria vive è il vero cardine di questa serie. Infatti mi dicono che ci sarà uno spin-off solo su secondo me la scena che lei se ne va in quel modo comunque è fatta apposta per far pensare al pubblico, guarda che forse poi dopo lo negano subito, perché poi chiaramente, però secondo me si potrebbe fare, cioè nel senso è fatta apposta qua la scena del mono. Beh, sarebbe sì, anche infatti se ne va alla barriera, però gli dice che poi Giorno alla fine vabbè, no, poi ci arriviamo. Allora facciamo una cosa, prendiamo una cosa bella e poi parliamo di una cosa brutta, quindi partiamo da Michela. La scena che ti ha commosso di più in assoluto di tutta la stagione, di questa stagione? Sì. Il saluto tra Jon Snow e Arya. Spiega alla fine, dice, ma come ricordo. Sì. L'addio tra Jon Snow e Arya, quando poi lei gli dice vado a sud di Westeros, su ovest, che dice? A ovest dell'ovest. Credo che quella sia stata la scena. Perché che in qualche modo terra è piatta, non è che fa il giro, questo è piatto, quel mondo è piatto. Ma per lei va verso una direzione sola per dimostrare che la terra è piatta. Probabilmente quella è la scena che mi ha colpito di più, ma ci stanno anche. Credo che l'attore, insomma, che interpreta Tyrion sia stato veramente la molto scena bravo. Quando trova il fratello morto, per dire, non tanto quando là, lì è un po'. Voi l'avete, però allora, quella scena lì, voi l'avete ritrovato la pietra? Lui che batte la pietra come il cugino scemo nella prima stagione. Perché? Non so se è una cosa voluta, però secondo me invece è un richiamo. Pure questo si è inventato. Quella, secondo me, in qualche maniera, secondo me, la disperazione, la follia, l'andare fuori da testa per il dolore, in qualche maniera. Per me, per esempio, è stata proprio quando lui ha salutato il fratello, perché lui, il personaggio di Tyrion, è sopravvissuto perché lui si è fatto forte della sua intelligenza, cioè della sua astuzia, e quello l'ha reso un personaggio forte. Però in realtà poi lui in realtà è un personaggio fragile, e senza il fratello lui sapeva di non essere niente. Non è solo quello, cioè è che Jaime è stato l'unico essere umano che gli ha voluto bene. Sì. Che l'ha amato. Esatto. Sì. Sì, perché infatti lui gli ha detto, anche quando ha ammazzato il padre, gli ha detto se non ci fossi stato tu non avrei superato l'infanzia. Ok, Alex con Cesira, insomma, Alex, vabbè, l'hai detta, però te ne concedo un'altra, dai. Scena che veramente da commosso. No, le ho dette tutte e due, c'è il battesimo da cavaliere di Brienne, l'addio il grazie di Arya a Sandor Clegane. Secondo me sono momenti veramente topici, dal punto di vista veramente emotivo, dal punto di vista visivo. Quando un fulmine illumina le nubi nella terza puntata, quando sta per arrivare, sta iniziando la battaglia e si vedono le nuvole che sono enormi, cioè ancora più grandi, e schiacciano proprio tutto. Non so se hai capito cosa intendo dire. Sai che durante la battaglia contro gli estranei c'è praticamente una sorta di tormenta. Sì. Ecco, queste nubi che arrivano davanti al castello, che sono illuminate, sono illuminate dai fuochi delle barricate, e ti fanno vedere questa cosa qua, cioè nel senso il fatto che l'arrivo di qualcosa di talmente imponente, talmente schiacciante, che toglie completamente la speranza. Quella roba lì mi ha tolto il respiro per 2-3 secondi, devo dire la verità. Dal mio punto di vista è assolutamente visivo, però cazzo, il cinema è anche questo, è proprio visione. Sono d'accordo, perché tutti hanno criticato il fatto della battaglia, non si vede un cazzo, però la scena di Dothraki che si spengono piano piano, ragazzi, cioè, ma anche acusticamente, ascoltatelo quel pezzo, cioè, rivedetevelo e ascoltatevelo, perché sente il silenzio e il buio che diventano protagonisti, cioè il buio e il silenzio si stanno mangiando la vita di quelli, cioè è una cosa, cioè, visivamente clamorosa, insomma. E vogliamo leggere qualcosa in chat poi, prima di andare invece nella cosa brutta, perché la cosa brutta bisogna buttarci a questo punto, insomma, perché... Vogliamo leggere, però io sto... Ok, tu stavi per cazzi tuoi, no. Nessuno ha seguito la chat. Allora... No, ce l'avevo, mi si è chiusa in questo momento. Beh, tanto allora, va. Il momento più bello per Lobster è Tyrion che sistema le sedie per 10 minuti. Anche sì. Beh, è vero, sì, è abbastanza emblematica. Commovente. Poi quelle sedie lì messe che guardavano Tyrion, Tyrion guardava le sedie. Bene, bene. Io comunque vorrei fare una menzione al... al barbuto, non mi viene mai il nome. Tormund? No. L'assistente di Jon Snow. L'assistente di Jon Snow. L'accompagnatore di Jon Snow. Tully. Ah, tu dici cosa? Sam. Il cicciotto? Sam. No. Chi era? Chi era? Quello con la barba, quello che voleva... Quello che accompagna Jon Snow nei viaggi, che voleva uccidere la Donna Rossa. Ah, tu dici il Lord dei Cinque. Davos. Che non è alla fine, cioè, vi siete chiesti anche voi, ma questo come cazzo ha fatto a sopravvivere fino alla fine? Perché è un altro paraculo. C'ha culo, c'ha culissimo. C'era plot armor, c'aveva. Esatto, sì, no, poi alla fine ci sono alcuni personaggi che comunque il momento, e qui arriviamo al momento. Allora, il momento che proprio non, proprio no, Marco. Proprio no. C'è il momento che proprio no. Tu ce l'hai il tuo momento. Il mio momento che proprio no. No, ce ne stanno tanti dei momenti che proprio no. Scegli proprio il più proprio no. Poi magari se vuoi dici anche poi gli altri. Parliamo anche di altri. Ma proprio no. Ma non perché per qualsiasi cosa, è proprio perché secondo me è stata talmente stupida questa scena. La scena in cui si va a parlamentare. In 50 contro un esercito. Ah no, mo ricomincia. Mo ricomincia, regà. Quella secondo me è una delle più grandi cazzate. Vabbè, sì, comunque l'ha detto pure quello del Trono del Mori. Cioè, una stronzata qua, ce n'è fatta male. Perché comunque. Fatta malissimo. Poi, vabbè, poi dire. Tu vai con quattro gatti sotto le mura del castello. Fighissima, potevi giocare diversamente. C'erano altri modi per giocare. Sì, sì. Potevi mettere Daenerys, lasciavi da una parte e facevi tipo un gioco di flash forward con questi che vedono la scena dell'uccisione di Missandei e qualcuno che riferisce a distanza, fanno capire che c'è un lasso temporale, che sussurra, che ne so, a Daenerys: ah regà, t'hanno schiappato la schiava sessuale, e lui che lei che impazzisce di loro a distanza. Lì ci avrebbe avuto un senso, per dire, ma che tu mi metti 50 soldati circondati da arcieri, balestrieri e Dio santo, che apri la porta e escono fuori cavalli a dirotto e li spasciano. Ma lì perché esercita? Un saluto intanto tanto a Andy di Ace Mussotto che ci è venuto a fare un saluto al volo. Ma Cersei è quella che ha fatto scoppiare mezza città perché gli hanno tirato la merda addosso. È quella che qualche puntata prima gli aveva detto: ah, regà, te mando l'esercito e. State tranquilli che vi mandano l'esercito. Sì, però l'ha sempre creato tutte lei, se le cose. Ma lei è una grande merda e tu vai lì in 50 davanti alla più grande merda. Ma sei matto, sei? Cioè, questa è una cosa veramente insensata quella scena là. Cioè, ce ne stanno altre. Vabbè, dicene un'altra al volo. No, scena no, però io per esempio lo sbrocco di Daenerys non l'avrei. Vabbè, no, quello mo no aspetta, cosa. Ok. Tu, Michela, è proprio la cosa che proprio dici no, sta cosa no. Non c'ha senso. E tu draghi che partono tutti, cioè tutti, sì, vabbè, pure quella, cioè, pure, allora, nel senso, quella... l'assetto di quella è quello di prendere comunque... No, strategicamente non c'ha senso la cosa, cioè, nel senso, la cavalleria va ai fianchi, invece quelli sono partiti a cazzo. Poi posso capire che in quel casino non si vedono i fianchi, posso anche capire, no, ma si vedono manco quelli che c'è di fronte, però, è un po' una mattata, fa, sì, insomma, quella è stata la Dothraki, loro combattono così, quello che vi pare, però vabbè, no, vabbè, quella è stata una buona sensazione. No, sì. Manco arrivano, si sono masticati. Mi stai chiedendo la cosa, no, la cosa più brutta? Sì, effettivamente. Quella che proprio non hai sopportato. Cioè che non ho capito. Effettivamente, mi ha lasciato interdetto la scena. La scena finale della quarta puntata. Cioè, loro in quattro gatti davanti alle mura, con questi qui con le super balestrone che gli puntano addosso. Navi, quella ho avuto dei dubbi, ripeto. Sono un fanboy, mi è piaciuto, sono contento che mi sia piaciuta, ma quella mi ha lasciato un po' perplesso, effettivamente. Ma tu dici quando sotto la roccia del drago? No, è la stessa scena che ti dico io. È la stessa scena che dice Marco. Ah, cioè, sì, quella. Ah, ok, quando loro vanno sotto al castello delle King's Landing a parlamentare, ok. Sì, beh, diciamo, Allora, secondo me da un certo punto di vista ci può stare, perché io ne ho viste altre delle scene simili nei film di guerra, insomma, soprattutto. Ma non con quelle proporzioni, tizio. Forse anche con proporzioni minori, io ho visto anche con capelli. Il problema è forse sono più le distanze, cioè nel senso, cioè io vengo sotto al castello tuo a parlare perché io sono l'ambasciatore e quindi sono anche sacrificabile. L'ambasciatore, no? Sì, va bene. Ma non che io ti vengo a 10 metri a portata dei balestre e dei frecce, cioè questo no. Chiaramente questo. Con quattro gatti inutili, ma soprattutto con la regina esposta. Cioè, che poi stanno tutti lì, cioè esatto, la regina, cioè, i consiglieri, il capo dell'esercito, c'è tutti. Cioè, è un po' una stronzata, insomma, questo chiaramente è un po'... Davanti a Cesira, che è Cesira quella... Cesira stava... A merda. Ma in realtà Cesira in quel momento c'aveva solo uno scopo, quello di fargli lo sfregio. Cioè, fai lo sfregio e poi ammazzali, cioè, e poi, quella cosa che... E poi ricordiamoci, come dice il trono del Mori, cioè Cesira, ossia Cersei, certo. Perché diciamo per che cui, in italiano, no? Significa Cesira, esatto. Assolutamente, esatto. Cioè, Cersei praticamente è la regina del trono di spade dalla prima stagione, ragazzi, cioè sempre, ha comandato sempre solo lei, cioè questa è la cosa incredibile, no? Quindi alla fine, a parte quella piccola parentesi in cui regnava il figlio, ma in realtà era lei che gestiva. È uguale, infatti, è uguale. Sempre... Diciamo il 60% lo gestiva lei, è perché sempre... poi il figlio niente quello sbroccava. Okay. Cioè, cazzo, veniamo invece a un'altra dolente, e cioè, qui Alex devi un po' convenire, poi di la tua, anzi partiamo da te. È che i personaggi alcuni personaggi improvvisamente sono diventati inutili, cioè, quasi tutti poi, nel senso, allora il pelato castrato Paris inutile, cioè nel senso, se Paris, non ma ste cazzo di lettere a chi le ha scritte? Ma le poteva scrivere a tutti, quello non, quello non sono arrivato a nessuno, cioè il fulco poi di questo de Paris, questa è un'altra cosa idiota, fanno vedere e marcano molto questa cosa che lui scrive, oh regà, questo è il figlio di Eris secondo, quindi che poi non è che sta a fare tutta questa pubblicità, insomma, visto. No, comunque, vabbè, questo qui è il pelato. E Ernano è diventato un idiota, cioè nel senso non è azzeccato più. Io sono due stagioni, una. Che non una. Poi è diventato un buonista, cioè andava lì tu il figlio, no? Perché lo so, per il tuo figlio e via dicendo. Poi altri personaggi diventati completamente inutili. Giosnone, parte l'ultima cosa che ha fatto importante, cioè quella di togliere mezzo Daenerys, per resto. Ok, perché lì, certo. Lì, ma perché tutto era costruito in funzione del fatto che lui doveva ammazzare lei, cioè nel senso era un po'. Alex, invece, quali sono i tuoi personaggi veramente? Cioè, nel senso, ammetti questa cosa oppure hai delle attenuanti? Sì, lo riconosco. Cioè, la sorella di Greyjoy, come si chiama? La regina di ferro. Sì. Ti ha fatto un cazzo. Sì, lo stesso Yara, sì, lo stesso cugino, cioè Euron, che è un po' rincoglionito, cioè nel senso, fa veramente la macchietta. L'attore è bravissimo perché fa veramente il tipo che cammina storto. Matto, sì. Come dice, esatto, il sì. È il punk del Trono delle Spade, infatti, cioè, è il Joker del Trono delle Spade. Che poi ma, è matto, è pericoloso, è un assassino, però. Ma sì, ma tutti quelli delle Isole dei Ferro sono un po' coglioni di fondo, secondo me. Secondo me sì, è vero, pieno di Jorah, che veramente, cioè, sì, la Daenerys lo prende e lo usa come scudo umano. Cioè, vabbè, ma lui però quello è sempre lui stato così. Sì, lui è un altro. Quello è sempre stato. Sì, però, alla fine Daenerys è zona del Trono di Spade, insomma. Daenerys è stata amata da tutti, è amata da Jon Snow, amata dal nano, amata da Coso, cioè da tutti l'amavano. Perché era appassionata, perché è di qua, perché è di là, però lei, cioè, lei a un certo punto vive nel senso, non sono più amata da tutti, ma sono amata soltanto da quattro stronzi, perché non è più di mio di diritto. Allora a questo punto dice, se il pallone non può essere, se il trono non può essere mio, allora distruggo tutto. Ma il trono è tuo, cioè, Mila voleva leggere un po' di messaggi. No, sì, più che altro perché se ne stanno accumulando tante. Allora, vabbè, è arrivato Gusella e è uscito Gusella. Ha detto buon salve e arrivederci. Ah, ok. E vabbè, si vede che sente la nostra mancanza, eh. Non lo dirà mai. No, non lo dirà mai, certo. E alla Lobby ci dice Euron 360 non scopre. Greyjoy. Che spawna a caso e ammazza Regal col balestrone, che poi nella puntata successiva i balestroni vengono dati ha degli stormtrooper. Sì, vabbè, lui spawna pure a caso nella scena con Jamie, cioè nel senso, Jamie lì arriva al mare, guarda, è vero, c'è la barca, posso fuggire, e sbuca fuori lui, che poi tra l'altro muore pure da coglione, cioè nel senso, però lui dice, però io ho comunque ucciso il re, esatto. Io sono il Kingslayer Slayer, o lo Slayer Kingslayer. Come poi, dice vabbè, sempre. Ci sono sia Zemischi che Lobby che intervengono sulla battaglia dei Dothraki, sull'attacco dei Dothraki. Dei Dothraki. E come dice Lobby, sono partiti per una carica strategicamente inutile, che tra l'altro se non appariva Melisandre a culo smarmellata di Yarak non avrebbero avuto alcuna speranza, infatti sì. E infatti poi Zemischi dice, perché, che sono serviti a qualcosa? E quando hanno attaccato poi erano in migliaia, cioè non... Poi sono tornati a essere migliaia, non so sì. Perché, io pensavo che erano morti tutti. Si coronano, pure i Magolari, a un certo punto erano intere legioni sull'ultima puntata, però vabbè, cioè, secondo me ci hanno avuto proprio dei mancamenti, parla bene questa cosa. Vabbè, allora andiamo un po', insomma, al succo, no? Cioè qui abbiamo detto, ci sono dei personaggi che devono morire per forza, ci sono delle situazioni che devono succedere per forza, abbiamo anche giustificato, anche concordando poi con Alex, il fatto che, vabbè, siamo più concentrati sull'aspetto visivo e sul fatto che alcune cose dovevano succedere. Effettivamente è il meglio che si è potuto vedere. Allora, negli ultimi anni. Secondo te, Alex, qui ti faccio la domandona. Questo ultima stagione del Trono di Spade, ok, non c'è Martin e si sente, diciamo così, fa un po' la distinzione tra io so autore di libri, tu sei scrittore per la televisione, perché è un po' un finale per la televisione questo. Allora, Martin è uno sceneggiatore. I suoi libri sono delle sceneggiature, non sono dei libri, punto. È un finale per la televisione, sì, secondo me era l'unica cosa che si poteva fare alla fin fine, mettendo tutto insieme tutto quanto. Il vero significato di questa stagione è che c'è un regnante, c'è qualcuno che ha vinto, ed è Bronn. Bronn ha vinto tutto. Ha vinto tutto, è vero. Bronn ha veramente vinto tutto, partito da... Un super signore, maestro del conio, tutto era. Tra l'altro, è il messaggio generale del Trono di Spade, cioè è la merda quella che va avanti, cioè. Essere merda prima o poi o c'è mori o c'è guadagno. Comunque nel frattempo è uscito il teaser trailer di Star Trek Picard, ragazzi. Vabbè, dopo lo so, ma lo guarderò dopo, me lo voglio tenere per quando posso cagarlo bene. Ed è proprio quello che mi aspettavo, ragazzi, perché poi vi spiego. Vabbè, vai. No, dicevi di Bronn. Sì, Bronn è quello che vince tutto. Il finale secondo me ci può stare, no? Cioè, nel senso, se noi prendiamo proprio l'insieme, l'equilibrio, portare l'equilibrio nel regno, devi dare il regno in mano a uno che non gliene frega un cazzo del potere. Non è che non gli frega un cazzo del regno, è vero, del potere. Non sarà mai, perché non gliene frega niente. Vabbè, ma abbiamo saltato tutto quello che ci ha portato al finale. Mo ci arriviamo, noi stiamo andando a cazzarella, Michele. Vai tranquilla. Vabbè. Che... Ok. Tu, Michela, cosa dici? Esprimi anche tu la... Su che cosa? Sul finale? Vabbè, tu... Che è qui, giusto, ingiusto. Cioè, io c'ho... Da tu cosa avresti... Allora, cosa facciamo così. Allora, io c'ho mia cugina che l'aveva vista alle 2:30 e mi ha detto, preparati con qualcosa di molto forte. E io ho detto, vabbè, questa non coglie occasione per bere, quindi... Può essere la scusa migliore, guarda, ho bevuto perché... Purtroppo. Però poi mi sono resa conto che in realtà c'aveva ragione, perché sì, in realtà abituata proprio a tirare fuori tutte le, diciamo così, le come ti posso spiegare, tutto il dramma shakespeariano, quindi tutte le emozioni, tutte queste famiglie che se distruggono, se massacrano, lì vedi, oddio, però non c'è gusto. Sì, ok, io rispondi alla mia domanda, tu come avresti voluto vedere la fine del Trono di Spade? Allora, intanto Cersei l'avrei voluta vedere morire meglio, davvero meglio, male, esatto, male, l'avrei male, voluta vedere meglio che morire, perché cioè sta morte abbraccicata a Jamie non la perdonerò mai a nessuno. Però lei dice non così, che è molto bello, cioè nel senso anche lei si aspettava, io sono stata enorme anche nel male, esatto, e muoio così come una merda, cioè scappando senza che nessuno mi veda, e abbracciata uno storpio, che è l'unico uomo con cui sono riuscito a combinare qualcosa, è mio fratello. Cioè, comunque, ripeto, un personaggio grandissimo che si rende conto che è la fine, ma se ne rende conto già appena vede il drago. E l'aspettava lì alla finestra, però ripeto, invece di scappare, cioè, è stata lì, cioè, viene portata via forza, perché non riusciva ad accettare il fatto della fine, e alla fine è costretta a finire in modo ancora più sfigato. Detto questo, lei è il siparetto più comodo, cioè quando vede che stanno litigando i due Clegane, lei si è fatta una certa. È bellissimo. Fate quello. Finta che io non ci sia. Passavo per casa. Volano pizze. Corremo, va. Zio Mischi, sono d'accordo. Devo dire, c'è un richiamo fortissimo a quello che pensavo io. Poi Pizzi, cosa tecnica. Però passare la lampadina che mi sta abbagliando. Ah, okay. Non ti sta abbagliando, perché non ce l'hai neanche in faccia. Perché devi solo rompere il cazzo. Proprio. L'unica cosa è che quando c'è la scena finale appare Mister Maguzzo. Diciamo un po' sta cosa. Comunque, arriviamo. Chi è Mister Magu? Era quel vecchietto, quello cieco che scambiava la gente. Sì, ho capito. Chi è Mister Magu nella serie? Cioè, chi... No, nella serie c'è l'inquadratura finale di Picard e sembra Mister Magu. Cioè. Ma ancora stiamo parlando di Picard. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Così ci capiamo. Ma anche no, perché io devo cenare, ragazzi. Okay. Allora, arriviamo al dunque, perché poi dopo magari, cioè, poi dopo facciamo, ognuno esprime una considerazione libera potendo bestemmiare, però arriviamo al dunque. Il dunque, ragazzi, è quello che fa diventare la penultima puntata, diciamo, innesca un meccanismo da Trono di Spade in termini atmosferici, perché a un certo punto succede qualcosa che tutti rimaniamo un po' col fiato sospeso, e un po' come quando Cersei ha fatto esplodere il tempio lì col fuoco della verde, l'alto fuoco, e dici, cioè, cazzo, cioè, questo è proprio il genocidio da Trono di Spade. Però poi da Cersei te aspetti, guarda, te la puoi aspettare anche da chiunque, anche da Daenerys. Sì, il problema è il perché. Come ci è arrivata Daenerys a fare sta cosa? E poi, tra l'altro, sta cosa non è che lei lì per lì ha pensato. Allora, fammi finire la frase. Poi una parentesi, su sta cosa. Okay. Lei non è che lì per lì ha pensato: ah, però a me non mi basta che si sono resi ora. Ma era una cosa concordata, perché pure il grigio verme grigio e tutti gli altri eserciti hanno continuato a ammassare gente a casaccio. Cioè, dopo certo, la resa, il verme grigio perché non ce l'aveva più, perché sennò. Voleva solo quella di Daenerys a sto punto. Scusa. Lui era super fedele. Devi stare vicino al microfono. Sì, t'hanno insegnato mai che devi stare vicino al microfono. Ecco qua. Mi sono dovuto allontanare perché non vedo più niente. Che palle che sei, in diretta, no, cioè. Non c'ho le macchie sugli occhi, ho capito, ma dove sta? Qua sta è venuto in casa Vianello. Mi si sente? Sì. A posto. Ecco, adesso non ce l'ho più le macchine negli occhi. No, non c'ho più le macchine negli occhi. Cioè, è bello, è vero. Scusa, Alex. No, cioè. Allora, praticamente, no, vai tranquillo. Apro la parentesi. Certo, con questa scena dove arriva Daenerys con un drago mezzo scassato, che aveva fame, perché lui non mangia. Da un sacco di tempo, e è riuscito a sbarcare una flotta, un'armata e un castello. Il castello. Ma lo poteva prima, ma lo poteva fare 4 stagioni prima. Esatto, cioè, sì, vabbè, cioè. Ha smontato tutta quanta la è stata colta di sorpresa. Non lo so. Allora, raga, per me il modo in cui io posso capire. Allora, lei è rimasta delusa a Jon Snow, si è sentita tradita. A un certo punto si è sentita un po'. C'è queste manie un po' di persecuzione, no? Perché poi alla fine è un po' tipico del Targaryen. A un certo punto c'è le manie di persecuzione. No, ho spiegato che non è così. Ok. Io ti sto dicendo quello che comunque posso pensare io, che possa aver indotto a sta cristiana a un certo punto a fare un genocidio immotivato, perché è immotivato, cioè, ma è immotivato pure per gli standard del Trono di Spade, secondo no, me. No, non è immotivato per gli standard del Trono di Spade. Perché a un certo punto Jimmy l'avrebbe fatto per la sorella. A un certo punto ne sentivamo il bisogno, nel senso che in ogni stagione c'è la scena che in qualche modo stravolge tutto, come l'alto fuoco, appunto. Allora l'hai pensata male, perché allora io ti dico: ok, vuoi far genocidio? Allora tu fai in modo che la strategia di Cersei porti a compiere un gesto da parte degli attaccanti che sono costretti purtroppo, se vogliono vincere, a fare un genocidio. Ma no, che a un certo punto è tutto fermo. Frusta l'ossessione, perché Daenerys è ossessionata, esatto. Frustra la sua ossessione. Che poi loro in modo che debba per forza fare una cosa del genere. T'hanno fatto pure una bastardata, perché tu dici lei comincia a volare verso la torre della fortezza rossa e dice vabbè, mo gli dà una svampata, no? Ma no. E invece no. Invece Alex, dici la tua. Allora, di pancia non ci credevo che lo stesse facendo, però è anche vero che era tutta la stagione che quando lei ha scoperto che non era più lei la legittima erede al trono, ma era l'altro tizio che si scopava, che era comunque suo nipote, cioè questa roba qui un pochettino la indebolisce, ma soprattutto la battaglia al nord, quando essenzialmente... Lei sì, fa cose, però tutti dicono gli Stark sono stati loro a vincere. È stato Jon Snow, che tra l'altro è quello che ha fatto meno di tutti, perché lì la battaglia l'ha vinta Arya, cioè. Grande Arya, comunque grande figa. Per cui ripeto, cioè, capisco che lei ha passato nell'altro continente tutto il tempo a governare, a vincere, a distruggere i suoi nemici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi arriva qui e non è esattamente come se lo immaginava. E posso capire la sclera. Forse sì, l'avrebbero potuto mettere in scena un po' in maniera però un pochettino diversa. Sclero, ma non alla follia, perché la puntata dopo ammazziamo tutti, non che ci frega niente, noi siamo i buoni, facciamo il buono. Cioè, no, lei alla fine diventa. Nel senso, si autoconvince della cosa, sì. Cioè, mi sembra estremamente forzato. È forzato, perché sì, però guarda che tutti i regimi totalitari iniziano così, sì. Con gente che non ci credo, ma sì, no, sì, siamo forti, dobbiamo distruggere il nemico, e poi alla fine comincia a crescere, diventi assolutamente fideista e fanatico. Cioè, secondo me c'è stata anche una sorta di denuncia del trumpismo, del sistema. Forzato e troppo rapido. Cioè allora, troppo rapido. Vede, allora, il discorso vede. Del rapido, diciamo, lo leviamo, perché le ultime due stagioni sono state all'insegna del rapido. Cioè, o sto qua, o sto là, o sono arrivato, o no. Sono arrivato. Ma questo pure. Tipo, abbiamo visto intere stagioni in cui praticamente se partiva da una parte, e alla fine della stagione forse. Ed erano comunque veloci. Si arrivava. Ho visto pure con Euron, no? Che stava lì a fiocinare i draghi, poi a un certo punto la scena dopo stava avvicinando la regina, che lui ancora non aveva capito che lui era convinto che il figlio era suo, certo. Ha deciso che era un coglione, dai, cioè. Veramente che era un coglione. Comunque non gli si vedeva, non so quanto tempo è passato, ma cioè, quanto è che si comincia a vedere la panza? Dopo 2 o 3 mesi? Ma che ne so, 4 mesi, quindi ecco, in tutto questo tempo neanche 4 mesi, vabbè. Cose che succedono. Comunque, vabbè, io insomma. Allora, io vorrei. Non è che ha preso male personalmente il fatto che Daenerys improvvisamente diventa la cattiva, perché. No, c'è sta. È il modo. Sì, secondo me è troppo semplice il modo in cui fanno accadere le cose in questa stagione. Questo sono d'accordo pure io. Però a questo punto andiamo a fare un giro proprio. Allora, Marco, in questo momento io ti do i 3 minuti, 3, no, perché sennò poi mi rompi il cazzo. Per dire. Tutto quello che vuoi dire su che non hai detto fino adesso. Pesante. No, in realtà signor Presidente. Presidente, in realtà non è che c'ho tantissimo da dire. Insomma, è stata una stagione che a me ha dato, come quella precedente, ma questa più, l'idea di essere un po' sciatta su certe cose. Forse perché ero Shatner. Abituati comunque con una scrittura che veramente era molto più cavillosa, c'erano molti più dettagli. Una stagione che ti dura 6 puntate, in 6 puntate te devono far succedere tutte, e te devono far succedere tutte anche velocemente, perché te devono sbrigare, però non ti spiegano niente. Sì, sono 6 puntate, ma da 80 minuti, cioè. Mediamente, forse, perché le prime due sono da 50, le prime due. Sì, però no, anche la seconda dura di più. Dai. No, 50 minuti, sono sotto ora tutte e due. La terza comincia ad essere almeno 1:20, 1:15, 1:20, 1:30 del genere, però sono un po' di meno. Però sì, è vero, durano un pochino di più, però ci stanno tanti buchi, cioè, che non ti spiegano, e non ti spiegheranno mai, perché tanto non te devi fare domande. E questo è, ritorniamo, quando sono in mano agli sceneggiatori che devono creare, non te devi fare domande. Perché se te le fai perché purtroppo la scrittura televisiva oggi diventa un po' come, ma pure al cinema, cioè sì, siamo, assolutamente siamo andati nel tenore di J.J. Abrams alla fine, un po' detto, cioè alla fine le cose succedono, ma perché succede? Non fa niente, sono successe, e questo poi alla fine per uno che invece è stato affezionato a sta serie e arrivi alla fine e ti dici vabbè, ma perché, c'è ogni poi, volta c'era, cioè in una, allora questa serie, ma noi abbiamo visto le ultime due stagioni, i draghi, i fuochi, tutta la parte fantasy. Ma qual è stato il fulcro di questa serie? L'intreccio, cioè la politica. La politica, il complotto, la cospirazione, l'intrigo, il dramma. Cioè, nel senso, il tradimento. Ed era tutto così talmente credibile che alla fine tu dici sì, è fantasy, sì, è un fantasy, cioè credibile, nel senso è uno fantasy, e alla fine sono usciti fuori i draghi e la parte credibile è sparita, ma non perché ci stanno i draghi, ma proprio perché è sparita alla fine, cioè non dai draghi, perché con i draghi, già col drago piccolo che te lo cresci, che è debole, che... ancora funzionava tutto, secondo me ancora funzionava, cioè insomma, Alex dice, beh, dice un po' pure i zombas, così, ma anche quando i draghi stavano, così chiudiamo poi col pensiero di Michela dopo. Allora, il fulcro di questa serie, prima che diventasse un po' più fantasy, era una serie che secondo me si ambientava in un medioevo alternativo e che rappresentava fino a quanto possiamo abbassarci come esseri umani, cioè nel senso il genere umano fino a quali bassezze può arrivare, ed è questa la cosa bellissima. La primissima puntata è un incesto e un tizio che, per non far vedere l'incesto, butta via, cioè getta un bambino, esatto, un bambino dalla torre, cioè prima ancora che ci sia un re, esatto, attenzione. Esatto. E questa era una cosa veramente tanto forte. E in più ci sono sempre nelle primissime puntate della prima stagione c'erano dei sottotesti, cioè che ti dicevano certe cose, sottotesti che poi scopri e capisci man mano che vai avanti a vedere, oppure se ricominci, se adesso io ricominciassi a vederla dalla prima stagione direi ah cazzo, questa roba qui perché si collega lì, cioè nelle prime quattro stagioni, cioè, questi collegamenti c'erano ed erano forti ed erano veramente evidenti, cioè ti rifacevano i denti prima in faccia, tu non te ne accorgevi se non riguardavi tutto dall'inizio. Ovvio che poi le cose si sono un po' diventate un pochettino più blande. Detto questo, sì, io non la considero una serie fantasy, la considero una serie che racconta delle bassezze dell'umanità, ma ripeto, è come se fosse Gomorra, ma ci sono i draghi, ma l'ordine di grandezza è quello. Il fantasy è l'ambientazione, cioè se ci sta, se tu racconti una bella storia all'interno di un contesto che non è... Esatto. Dragomorra. Michela, invece tu, qual è il tuo parere? Cioè la cosa che proprio, dato che non ne parleremo più, vuoi dire che non hai ancora detto? No, vabbè, io sono molto d'accordo con Alex, cioè da praticamente non amante assolutamente del fantasy, e cioè io sono riuscita comunque a appassionarmi a questa serie in un modo comunque anche viscerale, e ci ho trovato veramente riferimenti comunque a scene viste in alcuni romanzi, in alcuni drammi della letteratura, sinceramente tutto sommato, a parte l'ultima stagione che mi ha lasciato un po' così, un grande grande grande lavoro, quindi non c'è niente di male da dire alla serie. Qualcuno tipo che ha scelto loro, qualcuno deve morire di bestemmia, così, giusto per... E vabbè, quindi... Io ho delle domande dopo, perché non me so chiare. Allora, Lobby c'ha una domanda, aspetta, Lobby c'ha una domanda. Vai, Lobby, richiesta vai. Finale, scena più bella dell'intera serie per voi. Ah, dell'intera serie addirittura, cazzo. Porca puttana, no, non sono preparato. La battaglia dei bastardi. Tanto pensate, io faccio le domande, pure io le domande. Di cose cuore... Che non ho. Aspetta. Di cuore Aria che dice grazie a Clegane, di testa il processo a Tyrion. Anche grande, grande. La morte di Oberyn, sono state tante belle. Cioè. Odor, raga, Odor trova un modo, cioè. Odor, credo che Odor. Odor ho pianto anche io, devo dire la verità. Odor è la scena più bella, sicuramente. Un povero storpio, Odor. Un povero meno male che è stato sfruttato come portantino per anni. Quando bastava la sera delle. Chi più di lui non destinato a morire in pratica, esatto. Perché insomma, chiaramente... Io ho due grosse domande, due grossi dubbi che mi perseguiteranno per sempre. No? Varys, che è stato condannato a morte per tradimento, e poi lui ha voluto morire, secondo me. Sì, lì ormai era. Ma cioè, che cazzo ha fatto? Niente. nell'ultime due stagioni l'ha fatto. No, nel senso che io dico un danno per altro tradimento, perché te sei venduto Tyrion, ma fondamentalmente lui che cazzo aveva fatto? Lui in teoria cioè secondo lei aveva mandato ste lettere. Però ma no, in teoria lei non lo doveva. Ma non lo sa, lei, non cioè. Lo sa neanche, non lo sa nessuno. So, però chi le ha mandate, chi le ha ricevute? Cioè, non hanno avuto successivamente, non hanno avuto nessuna sorte queste lettere, capito? Cioè, io non so, ho capito perché dice. No, quello infatti non. E due, la cosa più importante, ma la barriera si autorigenera. Ma magari è inquadratura da un'altra parte. Ma perché mi devi aprire la porta quando c'è sta un buco grosso come il Gran Canyon dall'altra parte? Cioè, perché non capisco. C'è ma sta che vuol dire, magari sta a chilometri di distanza. Ma magari con la neve, col ghiaccio si è rifatta. Sì, certo. Cioè. No, ma quello è quello. Cioè, vuol dire, il buco può sta pure da un'altra parte. Ma non è proprio. Ho capito, ma credo lì. Con quella bici dice la tua che è Tyrion. Che strippa e richiede un trial by combat nella quarta stagione. Lo fa sempre. È quello, durante il processo. Lo fa pure durante il primo processo, quando sta nella valle, no? Sì. Quello, sì. No, sono due, nella valle, che Bron lo difende Bron. Ah, sì, sì, poi dopo pure quando... Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Che poi vabbè. Che gli dice poi lei, a lui, gli dice... Hai combattuto senza onore? Io no, ma lui sì, quello che aveva buttato di sotto. Una cosa del genere. Ah, comunque regà, pure la tipa, quella che allattava il figlio dei 18 anni. La sorella quella che casca di sotto. Che la butta di rocco. Sì. Ah, cioè. Che casca di sotto. Quella scena è stata. Ma lì pure di rocco ha fatto una bella fine, ma alla fine quello che se ne dava. Vabbè, ma tu, Alex, come doveva finire secondo te? Cioè, chi doveva diventare re? Esatto. Perché poi il re è diventato il carrozza. Noi ci abbiamo fatto il titolo, ma non abbiamo mai. Ma Alex ce l'ha detta la scena sua più bella? Sì, l'ha detto. Ok. Allora, la cosa interessante è che non c'è più un trono. E il nord si è staccato, il sud è diventato un posto di rincoglioniti. C'è tutte le grandi casate sono scomparsi. Lannister non ci sono più. Il tizio lì, Bron, è diventato capo di due case direttamente. Cioè, Dorne c'è un rincoglionito. Il popante, quello che ciucciava la testa, è lì anche. Cioè, nel senso, è diventato. Ormai il Westeros è diventato un posto di rincoglioniti veramente tanto, e alla fin fine cioè, il vero governo è costituito da Ser Davos, da Bronn, da Tyrion, da Brienne, che forse è quella più valorosa, e da chi è che c'è altro? Basta, perché gli mancavano due, che ne mancano. Ah, c'era Sam che faceva Tarly, che frega più un cazzo, c'è, cioè lui bomba, cazzo che gli frega, esatto, non... quello, finalmente è una vita sua. Comunque giustamente Lobby ci dice, Marco, ti sbagli, perché il buco l'hanno fatto nella parte più orientale della barriera, a East Watch by the Sea, quindi sta proprio dall'altra parte, insomma. Ah, dove escono nel finalone è Castle Black, al centro della barriera, esatto. No, ma infatti questo ero convinto pure io che era così, cioè non sarebbe stato un po'. Ma io voglio capire queste cose. No, però posso capire la bottiglietta. Insomma. Vabbè, ma quindi chi deve dire? Ah, le bottigliette, ci siamo scordate le bottigliette. Ma cose fatte apposta. Sono vezzi. No, non sono fatte apposta. Ma sì, che sono fatte apposta. Ma sti grandi cazzi, dai, veramente. Sì, tutta sta gente che deve andare a cagare il cazzo. Cioè, io non l'ho vista e anche quando l'ho riguardato non ci ho fatto caso. Io il bicchiere di Starbucks l'ho visto, ma hanno fatto bene. Dopo l'hanno tolto. L'hanno fatto bene. Sì, e poi l'hanno tolto subito. Quindi era pure preparata sta cosa. Dai, cioè, per me, tra l'altro. Se vai a vedere, vabbè, te lo tolgo io anch'io in due ore. Non è neanche le Starbucks quello. Ma è uguale. Cioè, il problema è che tu metti una cosa decontestualizzata. La gente ci va a nozze queste cose. Se tu vai a vedere i programmi televisivi, sono pieni di queste cose. Cioè, proprio tutti so così, perché oramai c'è sta fissa della ricerca dell'easter egg dentro le cose, il richiamo, una cosa, la cosa anacronistica. È pieno, pieno. Cioè... Però quella è una pubblicità, dai. Ma no, sì, la bottiglietta non c'aveva marchio, neanche quell'altro c'aveva marchio, però tanto no, Starbucks ha valutato qualcosa come 2 milioni di dollari di entrate, infatti, cioè. Quindi comunque di cui 1 milione è servito per fare qualche drago che muore. Chi doveva essere il re? A me dici? Sì, secondo te. Ma tanto il re è esattamente quello. Sono rimasti pochi stronzi e anche ci sta anche lui, il re definitivo è un veggente, cioè meglio di così. Ma non gliene frega un cazzo, però. Sì, esatto. Che ti dice, io lo so, però l'unico vero regnante che avrebbe avuto il polso è adesso la regia del Nord, okay. Che è Sansa, che dopo che le attraversate tutte. Sì, ma alla fin fine ha detto, noi vogliamo essere indipendenti, cioè Nord, Dorne, Approdo del Re, regioni differenti con problemi differenti. Cioè, per cioè, citare qualcuno anche, che sì. Esatto. Ah sì, pure la no, morte, ripeto, la morte di Joffrey è stato un bel momento anche lui. Insomma, abbiamo battuto tutti quanti le mani. Joffrey secondo me è morto troppo in fretta, cioè, ma come però anche Ramsay sono male. Morti troppo in fretta, nel senso, e soprattutto non li hanno fatti vedere, nel senso, sarebbe stato più bello vederli, cioè, dopo, beh, che, però, dopo che però, si è visto un sacco sì. Di robe che hanno fatto, c'era la scena che lui usciva il ketchup e la maionese dalla bocca, insomma. Però nella costruzione dei cattivi e quindi di quelli che poi comunque dici Bolton. Oh, grazie che sono morti. Devo dire, cioè, che Daenerys non ci ha fatto, a me non mi ha fatto né caldo né freddo, né vederla viva né vederla soprattutto morta. Quindi diciamo che costruire quel... Il coglione della serie è Stannis. Stannis secondo me. Stannis è proprio un coglione. Vabbè, no, c'è stato esatto. Euron sempre qui, secondo me. Stannis no? La Rochelle. Sì, Stannis La Rochelle, esatto. Marco, chi doveva essere secondo te? Ma secondo me ci potrebbe... Non Jon Snow, perché Jon Snow non sa un cazzo. Ma non sa fa un cazzo, cioè lui. Ma poi l'ha dimostrato proprio. Cioè proprio manco il suo esercito. Io ve lo dico chi doveva essere. Dai. Daenerys se non fosse Ghost Rider. Daenerys se non fosse impazzita poteva anche essere, però doveva impazzito per forza fare lotta e quindi l'abbiamo tolta dalle palle. Resta Bran, chi resta? Basta, finito. Che poi dopo, cioè, che poi dopo che hai fatto un genocidio, vedi, ripopola la città, ricostruisci la città. Ma cioè, è facile. Vabbè, comunque, dai. L'ultima domanda. Dai. Ma l'Essos? Essos lo siamo scordato. Che cazzo c'è? Come si chiama? L'esercito di Daenerys va lì e gli va a rompere i coglioni. No, sta lì, cioè, l'hanno lasciato a Dario. Via, finito. Salutiamo anche Davide Gatti, che è passato solo a fare un saluto. Invece, la morte più bella, ecco, quello forse... sfragnato dalla campana quando esplode il tempio di Belo. No, il morto più bello, regà, comunque ancora oggi resiste. È quello sfragnato dalla montagna. Quello che sta a pisciare, sì. Esatto. Sì, no, quello per me ancora oggi resiste. Che poi ha creato il trono, il morti di Trono delle Spade. Quella morte sì, là. Secondo me è stato quello che... Perché veramente è stato assolutamente bello. Invece, vabbè, dai, io direi che. Boh, Alex, cioè, vuoi concludere in qualche modo? No, basta, no. Cioè, nel senso, abbiamo detto, ragazzi, sì. È stato bellissimo. Dai, secondo sì, me è stato bello. Sì, sì. Secondo me bello. È stata una cosa epica, bellissima. Dal mio punto di vista, queste battaglie si sono mangiate tutte quelle le minchiate fatte da Peter Jackson. Vaffanculo a tutti quelli che dicono: oh, PJ, genio totale, genio un cazzo. Secondo me è uno che va bene per fare le cose con le miniature, ma. Sì, ma poi sono anche contesti diversi, dai, cioè, nel senso. Il budget ce lo dava il Signore degli Anelli per fare. Sì, esatto, secondo me questa roba qua ha funzionato di più. Mi ha dato di più, mi ha reso molto più bello e soprattutto le scene in continuity, in un'unica take, in piano sequenza di Aria in questa stagione di Jon Snow nella battaglia dei bastardi, secondo me sono veramente tante robe belle. Comunque pure il modo in cui muore Bolton lì. Un magnato dei cani, pure quello. Button, sì, ma che quello gli mozzica proprio la faccia, cioè, ma è bella quella scena. Perché comunque pure quella è tesa fino a che proprio il cane mo lo fa, poi alla fine lo fa. Comunque vabbè. È meglio la faccia. Io chiudo dicendo solo una cosa, che secondo me dopo l'effetto Lost ci sarà l'effetto Trono e Spade, cioè, nel senso che la serie così non la vedremo più per tantissimo tempo, sì. E ci saranno delle conseguenze in questo. Sì. Comunque la scena, veramente una scena molto bella dell'ultima puntata è la vestizione di Sansa come regina del nord. Ma anche la svestizione me... fatta da Bolton era niente male, però vabbè, quella vabbè. Secondo me anche lì comunque c'ha un valore proprio anche ci ricorda per... che io più attimo... lo prendi in culo e prima poi forse prendi in culo diventi esatto, esatto. Infatti, eppure io c'ho una cosa sola che un attimo ci ho pensato, non degeneriamo no, però un attimo mi sarebbe veramente piaciuto che Sansa e Tyrion si sposassero. Erano già sposati per un attimo ci ho creduto a sta cosa, secondo me pure lei ci ha un po' pensato tutto sommato. Comunque sarebbe stato figo un colpo di genio se alla fine ci fosse stato il plot twist, cioè il pezzo che dice che quando gli dice Bran gli dice: per quale motivo sono venuto qui a Tyrion? No, è venuto qui perché sarebbe stato incoronato, lui sapeva, no? A quel punto gli sarebbe stato figo il plot twist che a Bran gli si illuminavano gli occhi di rosso, dice: io sono il grande demonio, il male che ha organizzato tutto per diventare. Adesso morite tutti. Adesso morite tutti. Che poi Bran il rotto, insomma, diciamo. Bran lo spezzato. Bran lo spezzatino. Bran il rotto primo del suo nome, insomma, vabbè. Comunque. Allora io Bran broken. Ringrazio Michele De Paola. Prego. Ci mancherà altro nelle spade. Allora, ci mancherà altro nelle spade. Ci mancherà le vittime che hanno mietuto. Vedremo tante serie che vorranno emulare come hanno fatto con Lost. No? Quindi gente dove muore facilmente. Esatto, per anni vedremo serie dove gente muore. Non casaccio. Lo so se ci sarà l'effetto Lost col trono di spade. Già c'è, secondo me. No. L'effetto non è Lost, l'effetto Netflix. Cioè, che ha cambiato lì il modo di concepire le serie. Ah, per cui sì. È un mondo che è già finito, questo qui è finito, è finito cioè, ripeto, non è... Comunque ragazzi, siete una manica di gente ottimista, proprio. Ottimismo è... No, allora io sono contento. L'ultimo episodio del Trono di Spade ha causato 35 milioni di persone nel mondo che hanno preso un giorno di ferie per guardarselo in diretta. Cioè è una cosa epocale, cazzo. Cioè non lo fanno per il Super Bowl negli Stati Uniti, l'hanno fatto per questa cosa qui. Il Super Bowl. Sono d'accordo. Il Super Bowl. Però dato che è cambiato il mercato, questa roba o arriva Disney col suo sistema, col suo nuovo la sua nuova piattaforma, e dice: adesso facciamo questa roba qui con Guerre Stellari, e fanno Guerre Stellari con il budget di Guerre Stellari in televisione, ok, altrimenti questa roba qui per altri 10 anni non ne vediamo una roba. Vedremo delle cose magari grandiose, ma avranno una faccia diversa, avranno una struttura diversa, avranno uno spirito diverso, magari saranno anche interattive come quelle di Black Mirror, però questa roba qui, questo qua è veramente stato il canto del cigno, cioè l'esplosione totale, cioè questa è stata la cosa più epica che avranno mai fatto, più costosa, e da qui in poi le cose saranno un'altra cosa. Sì, sono abbastanza d'accordo, devo dire, volevo bestemmiarlo un po' di più, però poi alla fine ci mancherà altro. Vabbè, comunque nei commenti si legge proprio la voglia di mandarci a casa, quindi ok ragazzi, vi amiamo tanto, vi vogliamo tanto bene. Amica Paola, non abbiamo parlato della morte di Daenerys comunque, però ne parleremo in un altro mondo. Solamente decontestualizzare. Lobster dice, scusate, Lobster dice: con il budget di Guerre Stellari e gli sceneggiatori di GOT, i due produttori di Game of Thrones, Benioff, faranno la prossima trilogia di Guerre Mamma Stellari. Mia, sì, infatti. Trilogia. Ascolta, non possono fare peggio di Jar Jar. No, no, ma attenzione, guarda, che così la prendono, la prendono come sfida personale. Esatto, non c'è mai di tu mi stai a sfidare. Pensi che non sia in grado. Se io voglio. Hold my beer. Saluto Marco Gualdin. Ciao, noi siamo in grado invece di fare peggio di J.J. Abrams, anche con le mani legate dietro la schiena. Ricordate, insomma, ogni tanto andate sul sito www.runtimeradio.it, cercate lì, cliccate su Runtime Anch'io, dove potete partecipare alla nostra campagna Patreon per farci diventare milionari, ricchi, anzi, re del nord, esatto. Se cliccate, cioè, anzi, metteremo proprio, se date più di X diventate pure voi del re del nord, però no, vabbè, non c'è assolutamente bisogno, ma comunque in realtà ci aiuta, insomma, a sostenere tutta la baracca che continua, insomma, a mietere successi su successi. Sono veramente contento. Vi ricordiamo che recentemente abbiamo superato i 500.000 download, che insomma è una cosa che poi, insomma, se andiamo a vedere tutto quello che abbiamo accumulato negli anni, chissà quante ne abbiamo viste. Saluto e ringrazio dalle nebbie di Avalon anche Alex Raccuglia. Grazie ragazzi, grazie. Devo dire che dal mio punto di vista è stato bello vivere l'esperienza del Trono di Spade, vivere con voi l'esperienza dei morti di Trono di Spade, perché quando l'abbiamo fatto 2 anni fa è stato divertentissimo, ed sì, è stato bello anche tornare qua, e l'abbiamo fatto, vedete, ci abbiamo riso sopra, ma io veramente volevo tirar fuori il mio amore, perché ho visto una cosa che mi ha dato delle emozioni, ed è tantissimo tempo che non ne provavo, per cui vaffanculo, viva! Benissimo, sono assolutamente d'accordo, quindi vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi speciali. Fra 2 settimane sarà un ennesimo speciale sulla seconda parte di Star Trek per quanto riguarda la seconda stagione di Discovery, poi dovremo ancora fare lo speciale su Indiana Jones, e poi ricordatevi di ascoltare tutte le trasmissioni di Runtime andando su Spreaker, cercando Runtime Radio, e andando a vedere tutti quanti gli show, quindi tutte le cose attive che escono praticamente quasi a scadenza giornaliera. Detto questo, io appunto ringrazio tutti quelli che stanno in chat, Ringrazio anche gli amici di New Game Plus Italia Podcast che sono entrati così adesso che è finita la trasmissione. Ciao New Game Plus Italia Podcast. In effetti questo è il momento migliore per entrare, cioè la fine, quindi mezzo possiamo milione. Ricominciare se volete. No, Alex deve andare a mangiare, quindi ci sentiamo. Grazie Alex, grazie Marco, grazie Michela, ciao. E alla prossima. Ciao. Ciao.